init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2, il sogno è finalmente arrivato. Dal California, dove spesso io e Favotto andiamo e guardiamo ballare dentiere e scricchiolare ginocchia. Anche perché fanno un'ottima pasta e fagioli dopo le due, e non sto scherzando. Devi solo che girare dall'altra parte e imboccare il posto dove tutti vanno e noi due no. Signore e signori, questa sera ospiti con noi i fondatori de che? Attenzione. Del Circu. Circu. Yes. Per... proprio così, Circu, non Cirque, Cu, Cirque. Eh sì, infatti il nome è sempre stato un grosso problema, almeno per me. Io mi sono messo a letto due giorni, avevo la febbre 38, non sapendo come cominciare, infatti ho sparato a voi la scelta, Circu, quindi. E finalmente si scioglie il mistero sul nostro chi l'ha scelto il nome? Sì, infatti, perché allora qui ci giochiamo la carta, perché noi siamo Music for Youth, è sempre un casino pronunciarlo per le radio, perché la gente scrive Youth con due F in internet. I-O-U-F-F. Mentre se qui dici Circu, cosa scrivi in internet? C-I-R-E-Q. E avete anche un riferimento sul sito internet www.circu.it. E comincia già una palanca di pubblicità. Favotto, buonasera. Buonasera, Terzariol, non importa, io rimango una gatta morta come tutti sanno. Allora, noi appunto questa sera, a parte le nostre presenze abbastanza discutibili, mi viene da dire, abbiamo due fondatori e fondanti elementi del... e fondenti, soprattutto. E fondenti. Amari al 70% si sgranocchiati in talune giornate. Io Katte lo vedo più, anche più alla nocciola, però. Tradinato. Ho la sorpresa. Allora. Manca il terzo elemento, che è Jacopo. Lo salutiamo. Ciao Jacopo. Se ci sta ascoltando. Anche no, non salutiamolo. Non salutiamolo. Si è rifiutato di venire. È rifiutato. Maledetto. Di fare la strada da Padova. Vogliamo abbatterlo con qualche fucile? Ci pensi tu, Favotto? Come le fagiane a maggio? No, esatto. Povero Jacopo. Teniamolo in vita. Va bene, non imballiniamolo. Parliamo piuttosto del progetto Circu. Circu. Circu. Sì, lo so. Circu. Circs. Dove nasce? Perché? Per quale motivo? Spiegateci tutto quello che volete prima di un pezzo musicale. Bene, beh, il progetto Circu fondamentalmente nasce per la strada, diciamo. È una cosa, una passione dei giovani che si ritrovano con una passione in comune. Tre amici che si trovavano sempre a far serata in discoteca insieme, che ascoltano un genere di musica un po' particolare, che è la tech house, diciamo, che è un po' il filone musicale che noi seguiamo e vogliamo proporre, e si ritrovano a guardarsi negli occhi e dire: qua nelle nostre zone manca questa cosa. E un po' parlandone con i nostri amici, con le compagnie un po' in giro per le città vicine, abbiamo visto un ottimo riscontro a quest'idea e abbiamo detto: proviamoci. Alla fine, nota carenza a tutti del Sandonatese è la mancanza di locali, e oltre alla sfida del proporre un nuovo tipo di festa, un nuovo tipo di musica, un nuovo tipo di movimento, tre ragazzi di cui due di 22 e uno di 28, quest'anno 28, si sono presi la briga di inventarsi questo nuovo locale. Hanno preso piccone e pennello e si sono messi a costruire, da un'idea malsana, che il posto dove lo facciamo, il California Dancing, come è noto a tutti, è anche una balera di liscio. Sì. Però una signora balera di liscio. Sì. Infatti tutti i giovani che vengono con noi il sabato sera ci raccontano sempre dei genitori che andavano quando erano giovincelli a ballare là, nonché trovare i nonni, ragazzi. Noi andiamo tuttora, cioè, io ma e voi Favotto. Due siete stilosi e particolari, ragazzi miei. Anche nei gusti metrosex, non preoccuparti. Nessuno mi aveva mai detto stiloso e particolare nella vita. Guarda che particolare è solo un eufemismo per non dire altro, solo perché siamo in radio. No, vabbè, comunque alla fine è venuta fuori questa idea. idea che tanti ragazzi conoscevano la presenza di questa stanza, di questa, beh, stanza del, no, di questo posto, e noi siamo andati là, abbiamo abbozzato l'idea di poterla creare, e una volta, diciamo, che siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo detto arrediamola, è il posto giusto. La creazione di un locale è un processo lungo? Questa è una domanda molto specifica, processo... perché non è che ci si alza la mattina, apriamo un locale, esatto, e salta fuori dopo due serate messe a piccar ciodi, sostanzialmente. Yes. È un processo lungo, stancante, e Stefano, volevi dire? E pieno di fogli Excel. Esatto, è una cosa incredibilmente difficile, però diciamo che pensiamo di essercela cavata egregiamente. Ci abbiamo lavorato sicuramente, cioè dai primi di maggio-giugno, da quando abbiamo creato questa idea, ci siamo messi dentro con pennelli, picconi e tanti amici Excel. Soprattutto, e tanti amici soprattutto, e questo l'ho sottolineato, e abbiamo cominciato a staccare le luci di Natale appese sulle colonne, abbiamo cominciato a smaltare di nero tutte le pareti che erano arancioni e con le palme disegnate, abbiamo cominciato a installare LED sul soffitto e abbiamo, diciamo, siamo arrivati a creare quest'idea, questo posto dove, diciamo, è nato il nostro piccolo sogno. Io le palme le avrei lasciate in ogni caso. Vorrei... Ma perché tu sei stiloso e particolare? Comunque, perché stiamo parlando del Sirku e tutto il resto. A maestra, com'è che lo pronunciano? Sirk. Perfetto. E c'è anche chi l'ha pronunciato Ciro. Ciro, esatto. Perfetto, vi ricordo che non siamo... Il nostro noto amico napoletano. Vi ricordo che non siamo in una pizzeria con forno a legna, perché ho detto che c'è una puntata sul Circus Ciro, perché c'è la chiusura del vostro locale. Ne parleremo più avanti, è il momento di un pezzo musicale, l'intervallo musicale, come allora, lo chiamano. Siamo giunti, è vero, al nostro intermezzo musicale, e a questo punto vi presentiamo un po' un pezzo, diciamo, che nelle moderne balere riscuote il suo successo. Sì, cioè che proprio la gente si denuda a sentire i Daft Punk. Sì, sono quelli che solitamente fanno le prove la sera prima dell'apertura di tutti gli ospiti di questi baldi giovani. Esatto, ci fanno da soundcheck. Fanno solo il soundcheck. Sì, e poi vanno a mettere musica nella parte liscio. Esatto, e nonché nella colonna sonora di Tron Legacy. Una cosa che io mi sono visto l'altra sera per gli affari miei in televisione. Questo significa che l'ho scaricato. Vabbè, dai, bastardo, non importa. Sei particolare anche in questo. Sono particolare anche in questo. Sono particolare anche quando finirò in carcere, visto che ormai lo sanno tutti quanti. Cos'è? Colonna sonora di Tron Legacy. Non mi pare di nient'altro. Tra l'altro, no, una colonna sonora abbastanza becera. Ma perché noi la mettiamo? Tra l'altro, il Daft Punk sono assimilabili al vostro sound? O assolutamente no? Ecco, vedi? Molto bene. La conseguenzialità di questo programma: assolutamente niente. I Daft Punk sono francesi? Sì. Sono un duo? Sì. Hanno delle tute da astronauti? Sì. Credo le abbiano in armadio, perché video con le tute da astronauti non le vedo da un paio d'anni. Ma tu le hai mai visti senza il casco o il resto? Cioè, che faccia c'hanno sti qua? È una domanda che tutti si pongono. La leggenda narra che siano gemelli di catte. Sono gemelli di catte? Ebbene sì, ragazzi. Infatti Kate ora, microfoni spenti, si esibirà in Around the World. E poi ci fa con la tuta da astronauta. E poi ci fa Intergalactic sul tavolo. Ecco, cos'è che avevano buttato fuori ancora? Non mi ricordo ancora. 2-3 album li avevano fatti, erano buoni. In live. E adesso è tempo di questa colonna sonora di sta cosa della Walt Disney. Non so perché abbiano partecipato. Evidentemente smollavano una bella quantità di soldi. Sicuramente qualcosa di più del fatto che facciano i soundcheck. Bella attrattiva a livello di clientela per il film. O anche perché nelle loro camerette si sono sempre sentiti un po' Lily e il vagabondo. Ora è da capire chi faceva Lily, chi faceva il vagabondo, però... Io direi che ci possiamo andare ad ascoltare i Daft Punk, e questa è The Rest della colonna sonora di Tron Legacy. Ho la spiegazione sul perché i Daft Punk sono dei robot, sostanzialmente. Se vuoi te lo spiego. Sì, sì, vai pure. Mi pare un argomento interessante. Molto allora, più delle mie ascelle. Ci fu un incidente nel nostro studio. Stavamo lavorando con il sampler e questo esattamente alle 9.09 del 9 settembre 1999 esplose. Quando riprendemmo conoscenza ci accorgemmo che eravamo diventati dei robot. A noi è successa la stessa cosa, siamo diventati però solo degli ebeti. Esatto. Fortunatamente a salvare... E esplose in faccia una caldaia. Esatto, di quelle della DeLonghi. E ci siamo trasformati in dei gabibbi. Ospiti questa sera i ragazzi del SIR. Perché vogliono la pronuncia corretta dopo che li abbiamo smazzati con tutte le altre. Bentornato Kate, bentornato Stefano, bentornato anche all'assente Jacopo che continuiamo a salutare facendogli appagare e che verrà imballinato con i fagiani. Siamo alle domande di rito. Eccoci. Parlateci delle vostre serate, quando è cominciata l'avventura, come mi si è dipanata nel corso del tempo e come verrà impanata nella serata finale. Metti fame, Daniele. Beh, diciamo, la nostra avventura è iniziata a maggio, come abbiamo detto, quando abbiamo iniziato a costruire il locale, e è iniziata a livello di serate notturne il 25 di settembre con la nostra apertura, che in cui abbiamo ospitato i resident del Cocorico di Rizzone, che sono gli Unzip Project, e dopo con l'alternarsi bisettimanale, questa parolona, ogni due settimane. È un concetto molto astruso per me, fa voto bisettimanale. Vuol dire una settimana sì e una settimana no. Ah, okay, grazie. No, guarda, è bello averti qui perché almeno si imparano le parole nuove, che altrimenti qua, se lasciati a noi stessi, noi siamo fermi a casa. Ma voi due non siete quelli che avete anche un programma sui libri? Sì, esatto. Eccolo lì, eccolo là. No, e comunque sì, ogni due settimane offriamo questa opportunità ai giovani di venirsi a divertire con gli amici, tra amici, e di conoscere quella che per noi è la bella musica, della buona musica e degli artisti emergenti che si sono fatti notare, sono i primi passi, diciamo, tra virgolette, ma che si stanno facendo notare nel mondo dei big. E anche avete avuto, se posso dire, degli ospiti internazionali di altissimo livello fino adesso, no? Adesso non per darti modo di tirartela gratis, però cavolo, sì. Beh, sì, cioè abbiamo avuto, diciamo che il nostro panorama a livello artistico gira più sulle zone tra Berlino, Germania, comunque d'Olanda, e non per ultimi artisti italiani. Noi crediamo molto nella possibilità di dare lo spazio agli italiani di merito, tra cui vogliamo sicuramente citare una coppia di fratelli che sono Pirupa e Leon, che in quest'anno si sono molto distinti a livello di produzioni musicali. Infatti, tra l'altro, dopo ascolteremo un disco di Pirupa. Il nuovo emergente Faraone. Esatto, il nuovo emergente Faraone, che è stato tra l'altro ospite dell'ultima nostra serata esclusivamente di venerdì, che è Marco Faraone, che è, tra virgolette, quasi un ragazzino, che però è veramente tagliato per quello che fa, per produrre e musica. Ne sentiremo parlare fra un paio d'anni. Sta crescendo. E poi accanto a questi ospiti nazionali e internazionali di veramente altissimo livello c'è tutta una serie di resident che sono un po' la vostra storia, diciamo, in qualche esatto, modo. Esatto, gli amici che condividono con la passione, ma che con cui loro ci giocano e fanno giocare durante le serate. Chi sono i resident? Beh, vai Stefano. Allora, i nostri resident, andiamo per ordine di importanza. No, sto scherzando. Loudspeaker, i nostri due nuovi giovincelli, le nuove promesse, e il nostro ragazzino Guido Giovanni. E per ultimo, dobbiamo dirlo? Dobbiamo dirlo. Tocca. Bosca Tonic, cioè, il suo nome in codice è Bosca Tonic. E Kate, se vuole spendere qualche parola su Bosca Tonic, che è detto anche Bosca, è passato anche per di qua, Bosca. Esatto, è stato vostro ospite. Da lì si è rovinato. Da lì purtroppo. Ce l'avete rovinato. È stato, diciamo, la nuova rivelazione di quest'anno, perché ha avuto un bel po' di ragazzine che gli hanno. Esatto, le quindicenni che seguono Daniele sono veramente molteplici, bisogna ammetterlo. Boscarato, perché Daniele sono anche io, per cui ricordiamo. Ma tu, esatto, hai delle quindicenni che ti seguono. No, io ho le novantenni del California. Esatto. Andiamo ad ascoltarci un pezzo che invece può essere più ricondotto alle vostre sonorità, no? Sì, abbastanza. Ed è quello di... Diciamo che... Tugfucker. Oh yes, è un disco abbastanza in voga. Al momento piace. Esatto, che fa animare le piste. E anche questo dovrebbe servire per chi non ha assolutamente sentito mai parlare dell'allegro terzetto che abbiamo qui questa sera, dovrebbe dare un'idea delle coordinate musicali delle serate che si svolgono. Beh, ce ne rimane una a questo, esatto, punto, di cui parleremo bene, e di tutto quello che a questo punto vi siete persi a non frequentare il Sirku. Molto, yes, bene, Lele, ti vedo preparato. Tag Fucker, questa era Disco Gnome. Siamo rientrati in Music for Youth, serata dedicata al Cirque per la chiusura del 26 marzo. Cominciamo a parlare di questa chiusura perché si chiude un anno ricco di soddisfazioni per Kate e soci. Oh yes. Vai Kate, a te. Beh, che dire, la nostra serata di gloria è la fine dell'invernata per noi ragazzi del circo, di tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Chiudiamo diciamo con un gran botto musicale, con una grande ospitata, anzi ospitate. Esatto, ben tre ospitate questa sera. Stiamo subito con le stelle della serata. Beh, innanzitutto diciamo il vanto della serata è sicuramente l'avere in console un duetto, che in realtà sarà solo uno dei due perché uno dei due non viaggia perché ha paura di volare. Ma va? Eh sì, ebbene sì, in qualsiasi discoteca del mondo loro suonino, viaggia solo uno, sono tutti e due produttori DJ, ma solo uno vola in giro per il mondo perché l'altro ha paura di volare e non riesce a guarire da questa cosa. Quindi in qualsiasi discoteca loro suonino, a Miami, OMC, in giro per l'Europa anche, uno dei due non viaggia perché proprio non riesce a volare. Il cachet in ogni caso resta pari? Chiaramente, avevi domande a riguardo? No, immaginavo. È un po' come il caso Ruby. Ma di chi stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del duetto dei Superflu, che sono un gran nome tra addetti ai lavori e comunque amanti del nostro genere. Ho ospitata, possiamo dire, anche in gran stile del Fresh and Fruit dell'anno scorso, che ahimè per la questione del vulcano dell'anno scorso non sono potuti decollare. C'è una grande attesa, sono dei gran produttori, la loro etichetta è la Mona Berry, per chi un po' se ne intendesse. Ah, non noi, non preoccuparti. Guardaci due ignoranti, molto bene. A cui esplose la caldaia in faccia. Sì, esatto. Tra l'altro però comunque per la questione del vulcano rivolgiti a Favotto, che era andato a fumare qualcosa e ha buttato un fiammifero in mezzo alle sterpaglie e poi è successo tutto il resto. Sì, sì, sì, e da lì poi si è scatenato tutto. E infatti il fiammifero in mezzo alle sterpaglie io l'ho lanciato in... Era Islanda quella volta, vero? Sì. Ah, molto bene. Una cosa del genere si chiamava. Sì, sì, ero anche fan del vulcano in Facebook. Ma pure io. E mi sa che eravamo anche gli unici due. Sì. E poi era molto bello perché era una pagina fan in cui non capivo una assoluta tega. Nera, tra l'altro. Sì, sì, sì, particolarmente scura. Perché in pratica tutti parlavano in islandese, che è questa lingua assolutamente carina, in cui si possono mettere tipo 3J attaccate tra loro. Continueremo poi con la lista. Esatto, c'è uno. Riproponiamo uno degli ospiti che appunto è Pirupa. Uno degli ospiti della nostra stagione, esatto, uno che diciamo si è distinto a livello di proposta musicale, di situazione durante le serate, e il nostro astro nascente delle zone, nonché il nostro amico che noi supportiamo, che anche lui con delle belle uscite sulle etichette tipo Saved, che è l'etichetta di Nick Fanciulli, o Area Remote, che è l'etichetta di 2001, che è, signori e signori, Mr. Old Eric. E che aveva fatto anche le sue comparsate su Beatport, tra l'altro, lo si è visto. Sì, lui è uscito, diciamo, fa esploso con un disco che si chiama Monkey Business su Terminal M, che è l'etichetta di Monica Cruz. E diciamo che oserei dire uno dei dischi preferiti dell'estate di Carl Cox. Perché se noi andiamo su YouTube a cercare Carl Cox Plays Monkey Business, ahimè signori, lo troviamo. E tra l'altro questo disco, Monica Cruz, ha aperto la Love Parade. Era quello che stavo per dire. Oh yes, e quindi bella soddisfazione anche per Odari. E bella soddisfazione per noi che riusciamo e possiamo spingere uno dei tanti ragazzi italiani che potrebbe fare la differenza, diciamo. Comunque, mentre io e te diventavamo fan del vulcano islandese, il Kat approfondiva la conoscenza dei Killers mettendo un like in Facebook, perché è il pezzo che ci ha chiesto. Eh sì, maledetti. Ci ha chiesto i Killers, sì, in particolare ha chiesto Mr. Brightside, e noi lo stiamo per accontentare. Mr. Brightside, singolone dei Killers del precedente lavoro, se non sbaglio. No, addirittura si va no, al primo. No, ancora prima. Era il primo album. È il famoso album in cui io e te ci siamo fatti delle grosse seghe per capire se... grosse seghe, che belle nel scene, senso ragazzi, di attrezzo per la falegnameria. Insieme, tra l'altro. Insieme, vorrei farti notare. Sì, ma perché anche ci sono quelle a doppio manico. A doppio manico. E praticamente... Per cortesia, vai avanti. Cioè, nella parte in cui volevamo sapere se c'era un campionamento. Il famoso campionamento di Beethoven. È vero, e che comunque c'è. Che c'è. c'è praticamente, se voi vi andate a sentire il secondo assolo di chitarra, è ripropone la nona di Beethoven. Killers, che sono partiti con Hot Fuzz, che era questo album del 2004, poi è arrivato tutto il resto. Sam's Town, hanno fatto anche una compilation in cui hanno coverizzato i Joy Division e di Cure. L'ultimo capitolo è però un capitolo singolo di Brandon Flowers, che ha licenziato un album che si chiama Flamingo, dal quale è stato il singolo Crossfire, se ricordo giusto. Sì, ricordi giusto. Guarda che stasera sto andando via senza note. Smettila per me di tirartela. È un'indicazione. Questo ne sai, abbiamo capito che ne sai. È strutturato che io devo introdurre il pezzo, okay. Altrimenti vado a letto con le crisi epilettiche. Poi tra l'altro una cosa bella è l'origine del nome Killers, perché è interessante il fatto che loro abbiano coverizzato i Joy Division. Perché? Perché il nome Killers deriva in realtà da un video dei New Order, che non mi ricordo più qual era, e adesso ci arriviamo nella spiegazione. Ossia, i New Order fanno ad un certo punto della loro vita un video in cui praticamente non sono loro a cantare, ma è un fantomatico gruppo di 5 giovani che si chiama Killers. Occhio al video, era quello di Crystal. Crystal, esattamente. E praticamente in questo video ci sono 5 tizi random che suonano davanti a delle televisioni. I tizi vengono presentati come The Killers e i reali Killers prendono spunto da lì per la scelta del nome. Il Cat ha scelto anche questo pezzo sapendo che Brandon Flowers è un mormone, quindi noi adesso, chiaro, andiamo ad ascoltarci. Io sono fan di mormone su Facebook, oltretutto. Esatto. Anche il vulcano islandese è fan dei mormoni. Andiamo ad ascoltarci il rappresentante dei mormoni in ambito musicale. Questi sono i Killers con Mr. Brightside. Sick, and it- questa è Music for Youth, è uno speciale per la serata di chiusura del Cirque che si terrà questo weekend il 26 marzo, e ho fatto un dispiacere a Kate perché l'ho pronunciato in maniera errata, ovviamente puoi confermare il mio errore. Oh yes, si chiama Cirque. Ecco, i contatti al volo 0421 560 993 per chiamarci in radio se avete voglia di insultarci o tirarci le mattonelle. Disegnatele prima via fax allo 0421 560 994. Contattateci via mail per sapere i materiali con i quali costruire queste mattonelle a radio@radiosandona.it, o visitate la nostra pagina su Sherwood o su RSD, oppure sul nostro blog che è www.musicforyouth.wordpress.com, dal quale potete scaricare questa puntata in streaming nel senso che si urla, esatto, in MP3 podcast tutti i giorni a tutte le ore. Altrimenti raccattate qualcosa sulla pagina di questi bei ragazzi, e non pronuncerò mai più il nome di questo locale per non sbagliarlo. La trovate sulla sezione podcast del nostro sito www.circu.it, sul nostro gruppo ufficiale su Facebook che è Circu Official Group, oppure direttamente sul profilo di Nicola Catte Cattelan. Esatto, se volete lasciarci, se siete donne, siete profilo, carine. Secondo profilo. Esatto, sì. Secondo profilo, siete donne carine, potete lasciare anche foto con recapito telefonico. Hai anche un ovviamente. Secondo profilo ormai. Ormai sì. Hai un Nicola Cattelan secondo. Esatto. No, il Granduca di York. Il famoso Nicola Cattelan lato B. Esatto, sono le cose nascoste. Come i vostri Segotti a doppio manico. Sì, esatto. Queste parole. Oppure il programma sui libri. Esatto, il programma sui libri. No, quello teniamo proprio nascosto. Che non deve essere detto, non deve essere detto. Parliamo ancora un po' della vostra realtà. Ricordiamo di nuovo che la serata di chiusura è questo weekend, il 26. Si comincia ovviamente sul tardi, quindi noi non ci saremo. Io e Favotto siamo già a letto. Beh, voi state uscendo dalla sala liscio, quindi già dalle 11 noi apriremo le danze con i nostri resident. Inizieranno, ci sarà Bosca in back to back con Guido Giovanni, per poi proseguire con il loudspeaker. Esatto, sì, esatto, il nostro direttore artistico Jacopo Albonetti, che al momento è comodamente seduto sul divano di Padova, con Sergio Parisi. Con Sergio Parisi, che esatto. Sta facendo compagnia a Jacopo in questo momento. Esatto, credo voglio mettere prima il loudspeaker, poi il back to back con Bosco e Guido, e poi la nostra kermesse con Old Eric, Pirupa, e per noi concludiamo sempre in bellezza col botto, con i Superflu, che ci accompagneranno fino alla fine. Con i loro dischi nelle nostre danze scanate. Si parla anche di una sorpresa alla chiusura. Esatto, ci sono delle molteplici sorprese sceniche. Ma tra l'altro la vostra scelta anche durante le altre serate era quella di affiancare sempre un resident all'ospite. Esatto, non più perché vogliamo dare la possibilità, cioè ci piace dare la possibilità agli artisti di esprimersi. Cioè loro, abbiamo un guest che apre la serata di solito, resident che apre la serata, e il guest dopo, diciamo, prende la pista e ci gioca. Questo Pirupa l'abbiamo nominato 27 volte, gli si staranno fischiando le orecchie, quindi direi che possiamo anche andare ad ascoltarci un pezzo che avete portato voi. Volete dire qualcosa in merito o possiamo cedere il passo alla musica? Beh, è un gran pezzo che fa ballare e, che dire, ci fa sculettare un bel po'. Bene. Ecco, a questo punto io su sculettare premerei play. Io direi che possiamo andare. Sì. Get funky. We'll be right back. Pirupa Get Funky, siamo rientrati su Music for Youth, puntata dedicata a chi fa voto? Al Sirku. Bravo, mi sa che sto giro l'hai detto giusto il nome, complimenti, ti becchi una slecazzata dal Kate qui presente. Cazzo, speravo di vincere una bambolina. Voodoo, con la mia faccia. Esatto, e degli spilloni in omaggio. Bando alle ciance. Sì. Fai dire qualcosa, ragazzi, qualcosa di costruttivo. No, io volevo riallacciarmi alla serata di chiusura del Sirku. Ah no? E prima ci siamo dimenticati di dire, soprattutto ai nostri ascoltatori di Padova, dov'è il posto in cui si svolgerà questa enorme chiusura. Beh, il posto si trova al California Disco Dancing, che diciamo come punto di riferimento potremmo prendere l'aeroporto di Treviso di Tessere. Venezia. L'aeroporto di Venezia Tessere è 10 km in direzione Jesolo. È a metà strada tra San Donà e l'aeroporto di Venezia, a esatto. 10 km e a 10 km. Da Venezia a Tessere prendete, andate sempre dritti lungo la statale. Dritti. Poi seguite per Jesolo oppure per Trieste, giusto? Lo trovi là, sulla destra. È lì sulla destra, fa voto. Sulla destra, tu schiantati prima contro un muro, fammi una cortesia. Allora, innanzitutto per me è sulla sinistra, perché io vengo da San Donà, innanzitutto. E allora svia verso un fosso, fai quello che vuoi, basta che ti detronizzi. In effetti c'è un ampio canale sul lato che non è il lato del locale. C'è un ampio canale che io uso tutti i giorni anche per fare delle sabbiature sulla riva, oppure più in generale immagine celestiale. Esatto, vero? Kate e Stefano, ricapitolate chi ci sarà in questa chiusura, poi, che in realtà chiusura non è, perché c'è un progettino verso un'apertura estiva, ma che non stiamo qui a svelare. Seguite tutto il resto all'indirizzo internet che fra poco vi verrà fornito insieme a tutte le altre indicazioni del caso. Vai Kate. Eccomi, allora, il nostro riferimento delle serate è sicuramente il nostro sito, che ripeto è www.sirku.it. Ci trovate su Facebook sia come gruppo ufficiale Sirku, ma anche come profilo che è Sirku Eventi. Richiedeteci l'amicizia e noi vi risponderemo con un cuoricino. È vero. C'è molto marketing in questo. C'è estremamente tanto marketing in noi. O ci trovate sui nostri profili personali: Nicola Catte Cattelan, Stefano Botter, Jacopo Albonetti e Sergio Parisi, dove noi saremo lieti di coccolarvi e darvi tutti i suggerimenti che belle immagini. E come consigli, esatto, per le nostre serate. La prossima serata, ci tengo a ricordarla e mi autoincorono capace di farlo. Sarà sabato, che è 26 appunto, con Super Flu, Pirupa, Old Eric, Bosca, Guido e Loudspeaker in grande spolvero. Iniziamo presto e finiremo molto tardi. Dalle 11 si aprono i battenti e la pista, e si chiuderà col sole nascente ormai. Per il progetto estivo poi se ne riparlerà più avanti. Sì, sicuramente ci sono dei progettini in mente, delle cose. Comunque le bronze si muovono. Vogliamo ricordare che anche il nonno di Chris poi ha organizzato l'after in sala grande. Esatto, io. Ah sì? Madonna, non vi preoccupate. Ci saranno delle belle sorprese in serata. Noi invece siamo fuori con il banco dei panini. O anche quello del pesce. Buono, preso dal canale. Certo. Dove stavo facendo delle intriganti sabbiature. Ragazzi, vi ringraziamo. Noi continuiamo con la nostra programmazione. Se volete salutare a casa o fare qualcosa. Ciao nonna Maria. Eccola là. Stefano, vuoi... Donne o presunte tali, maschi o presunti tali. Salutiamo il nostro amico Schiappino. No, una cosa fondamentale. Noi non salutiamo Schiappino. Una cosa fondamentale è che penso siano dovuti i ringraziamenti a tutti i nostri amici, sì. Che senza i quali forse probabilmente questo progetto non sarebbe neanche partito. Che ci hanno supportato, ci hanno dato una mano sia morale, una spinta morale da dietro, e anche ricordiamo Elisa Mattiuzzo, 680 spam su Facebook, e tutte le nostre amiche che ci hanno supportato. Complimenti per il Tonight Award. Ecco, che ci siamo dimenticati di dire. Se non me lo ricordo io. È vero. Ora siamo reduci da questa vittoria. Siamo alle finali nazionali. Sì, siamo alle finali nazionali del Tonight Award. Per cui andate a votare. Oh yes, sono esatto. Impressionato, io non lo sapevo. Non lo sapevi, no, fa voto. No, no. Ti colgo impreparato. Ma per una volta il viso fa voto non è preparato. Tantissimo impreparato, guarda, veramente mi inginocchio. Sì, siamo stati... lieti di vincere la categoria discoteche, il primo premio. Il Sonnet Award della sezione regionale, adesso siamo in concorrenza. Votateci infatti, sul sito del Tonight. Come diceva Angela Cavagna ai tempi di Striscia la Notizia, votate. L'opportunità vi è data da Facebook, dal vostro singolo profilo, date l'opzione, anzi il vostro voto, opzione. Ma pensate come sono ridotto. Sei un politico nato. Al Circu, così siamo a posto. Kat e Stefano, vi ringrazio. Grazie a voi. È stato un piacere. Grazie mille. Noi continuiamo con la nostra programmazione, come si diceva, prossimi ospiti, una tripletta. Eh sì, infatti abbiamo appena lasciato Kat e Stefano e il non presente Jacopo, l'assente giustificato perché era sul divano da quello che ci dicono. A crogiolarsi con Parisi. Esatto, molto un grande momento. A questo punto passiamo a Peter Bjorn e John. Trasferta in Svezia. Eh sì, svedesi che però licenziano album su album per un'etichetta statunitense, tal Wichita Records, di cui non finiremo mai di parlarvi bene. Vorremmo fare una puntata monotematica, sì, vorremmo, ma sappiamo anche di avervi un po' sbobinato con questa cosa delle puntate monotematiche, per cui per un periodo ci si prende una pausa dalle monografie, e quindi però andate a vedervi wichitarecords.com, il sito è proprio questo perché l'ho guardato oggi, cosa devo fare, e praticamente ci trovate una serie di gruppi assolutamente interessanti. A me piacciono i Bronx, se devo dire, però ci trovate chiunque, dagli Hot Chip che sono passati per di là in passato, a appunto Peter Bjorn e John, anche Block Party, un disco dei Check, poi Migrati, e quindi è tutta una serie di bei ragazzotti nel roster. Eh sì, Favotto festeggia perché ho trovato il nome di quella che noi avevamo già dato a Donatella Raffai, ossia a chi l'ha visto. Si chiama Victoria Bergsman, quella che partecipa a questa canzone. Sì, infatti questa canzone è probabilmente una delle più conosciute di Peter Bjorn e John, tra l'altro usata, posso dire, sia in terra d'Albione che in Italia, come colonna sonora di molteplici pubblicità. Eh sì. Oh, avranno studiato marketing da Kat, cosa ti devo dire? Kat fa un po' delle lezioni private al pomeriggio. Anche di Hula Hoop, ricordiamolo. Perché... sono ancora qua, quindi sono rimasti qua. Andiamoci ad ascoltare Young Fox. Questi sono Peter, Bjorn and John, dalla Svezia, con Furore. Peter Bjorn and John, questa era Young Folks su Music for Youth RSD 102.2 Radio Sherwood 97.8, e la nostra puntata è in chiusura anche questa settimana, dopo aver ospitato Kate e soci per la serata conclusiva del CIRQ, e finalmente l'abbiamo pronunciata giusta dopo un'ora d'altronde. Forse era CIRQ? Vabbè. Ma non importa. Volevamo solo che dargli dispiacere, d'altronde siamo nati solo che per questo. Io e te, Favotto, ricordi, non hai altro scopo nella vita. Noi rimaniamo dalla Svezia, rimaniamo in Scandinavia, ci trasferiamo per la canzone di chiusura in Norvegia, e più precisamente a Tromsø. Tromsø, una delle città più grandi oltre il circolo polare artico, più di 200.000 persone in questa cittadina, tra l'altro cittadona universitaria, se devo dire. C'è stato il nostro amico Marcello, se vi interessa, anche per un periodo medio lungo. Salutiamo quindi Anzianotti, questo è il suo soprannome. Due tromsoniani su 200.000 fanno musica, eh sì, e rispondono al nome di Roiksopp. Sì, e la fanno anche molto bene. Si tratta di un'elettronica che spazia all'ambient, ma non disdegna dei ritmi molto più sincopati e con molti più BPM, e non disdegna anche preziose collaborazioni come quella che vi stiamo per proporre. Infatti i Roiksopp capiscono che è il momento di mettersi d'accordo con qualche altro norvegese random, che però viene da più giù, ossia da Bergen. Da Bergen. Bergen, famosa per un mercato del pesce dominato da italiani e spagnoli. È vero, E noi c'eravamo. C'eravamo, confermiamo. Cioè, signora, come gliela devo tagliare la bestia? La bestia. La bestia, tra l'altro. Mentre la gente tagliava bestie a Bergen, questi componevano Melody AM, uno degli album più premiati dalla critica, non mi ricordo più in che anno, si era preso signori premi, e si sono avvalsi per l'appunto della collaborazione di un altro duo, ma è quello di Bergen, sono i Kings of Convenience, la voce prestata è di Erlend Oje, e in questa canzone come su Remind Me, mi pare di ricordare, sì. Su Apple invece non c'era nessuno, però è una canzone dello stesso album. Giusto? Mi pare di sì, però sto andando molto a braccio, devo dire. Quindi chiamatelo 0421560993 e correggeteci. Music for Youth si chiude. Favotto, ti saluto, ti ringrazio per anch'io, il supporto. Anch'io, Terzo Viola, è sempre bello vederti. Ci sentiamo la prossima settimana. Questi sono i Roiksopp e questa è Pur Lino.